Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. I soldi alle famiglie, i cosiddetti contributi volontari che si chiedono all'atto dell'iscrizione, e sono una necessità che nasce da ragioni di sopravvivenza. Tagliacorte e parla di ragioni di sopravvivenza. Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, a cui non è piaciuta, a lui come ai presidi che rappresenta, la bacchettata del ministro della Pubblica Istruzione Gelmini. Basta chiedere soldi alle famiglie, ha detto. I dirigenti scolastici devono avere maggiori capacità gestionali. Non si capisce infatti perché alcuni ce la fanno, altri no, a mandare avanti le scuole. I presidi, di contro, rispondono che lo Stato, prima di criticare, cominci a pagare i debiti che ha nei confronti delle scuole. E poi, anche qualora arrivassero gli annunciati 10 milioni di euro per le spese ordinarie, conti alla mano, significherebbero meno di 1000 euro ad istituto. Davvero poca cosa. E allora sentiamoli questi presidi cattivi che chiedono soldi alle famiglie. Marco Bevilacqua, preside del Tecnico per Geometri Ambrosoli di Roma, è stato addirittura denunciato per concussione da una mamma che si è rifiutata di pagare. Allora la scuola, racconta lei, non le ha consegnato il pagellino. Abbiamo chiesto lumi al preside. Ma scherziamo, la gente dice quello che vuole. Quindi non è vero, insomma, voi chiedete, come fanno praticamente tutte le scuole, aspetti, un contributo volontario. Lei si occupa di scuola. Sa la differenza tra pagella e pagellino, immagino. Certo. La pagella è un atto ufficiale della scuola, il pagellino è un pezzo di carta che non vale niente, non serve a niente. Il pagellino equivale al colloquio col professore. Ma l'avete dato poi comunque a tutti i genitori, no, o solo a quelli che hanno dato il contributo volontario? A una buona parte. Ecco, lei come li chiede comunque i contributi ai genitori, alle famiglie? Da dei bollettini? Chiede un contributo fisso, volontario? Prima di tutto non sono io che lo chiede, ma è il nostro consiglio d'istituto, come in tutte le scuole. Le faccio un esempio. Se le famiglie chiedono, per esempio, di utilizzare internet per accedere ai dati dei figli, questo è un servizio che non può essere realizzato dalla scuola se non spendendo dei soldi che non sono a disposizione. E allora nel contratto cosiddetto, il patto educativo di corresponsabilità è un vero contratto, noi indichiamo come scuola, indichiamo quali sono i nostri obblighi in considerazione delle richieste delle famiglie, per cui loro si obbligano a fare determinate cose. E lì c'è scritto comunque che bisogna versare dei soldi? Nel patto, il nostro integrativo, sì, c'è scritto che per avere determinati servizi, che non sono quelli ordinari, bisogna contribuire alle spese di funzionamento che sono specificamente indicate. Ecco, quanto si trova a pagare più o meno una famiglia in un anno se vuole accedere a tutte o in parte di queste allora, iniziative noi aggiuntive? Abbiamo indicato 200 euro. E nonostante avete indicato quello, vuol dire che avete dato un bollettino con scritto 200 euro? Esattamente sì. E nonostante quello che dice Scuolanette, le famiglie si ribellano? Allora, qui il 95% delle famiglie ha pagato regolarmente il contributo, un 5% lo ha pagato in parte e non sono stati mandati né carcerati, né denunciati, né cacciati via i figli. Stanno qui, studiano e vanno avanti. Però questo 5% sta sfruttando i servizi che noi offriamo pagati dalle altre famiglie. Il che non è molto corretto. Senta, ma come ha preso questo appello della Gelmini a essere un po' più cauti nel chiedere soldi alle famiglie? C'è scritto che c'è una commissione che si sta occupando della reperibilità dei fondi da dare alle scuole. Ora, io dubito che possano trovarli, per quanto mi risulta, e quindi penso che l'appello sia più che giusto, soltanto che non è possibile che la scuola non abbia disponibilità delle spese di funzionamento, perché in questo modo facciamo una scuola con il gesso, il cancellino e la lavagna. La Gelmini dice anche: presidi, fatevi venire delle belle idee, alcuni ce la sì, fanno, altri no. La finanza creativa, certo, la finanza creativa, ci metteremo sul mercato, che devo dire. Se la ride il preside dell'Ambrosoli, nonostante i suoi 500.000 euro di crediti vantati nei confronti dello Stato, e parla di finanza creativa, proprio quella in cui si sono buttati altri suoi colleghi. Gennari dirige il Polo 3 di Fano. Ecco le sue idee. Il noleggio, diciamo, delle aule, no, pomeridiane, il noleggio dei locali, grazie anche alla possibilità di avere una scuola che ha delle comodità, perché c'è un parcheggio, quindi diciamo è facile poi non raggiungerla. E quindi a chi le affittate? Ecco, e nello stesso loro le abbiamo affittate per corsi di formazione, sempre sono corsi per apprendistato, corsi FSE, no? Diciamo quindi corsi sempre che riguardano la formazione, perché naturalmente abbiamo sempre, diciamo così, il vincolo di pensare a quello che è la finalità formativa della scuola. Quindi chi è che paga? Sono corsi privati o? Sono corsi che diciamo per lo più finanziati da fondi sociali europei o corsi di apprendistato, quindi gestiti poi dalla provincia, dai centri per l'impiego, da questi. Entra qualche soldino, insomma. Sì, ecco. E naturalmente c'è anche la possibilità di farlo, perché appunto abbiamo in qualche modo proprio potuto rinnovare le aule di informatica, che no, per lo più diciamo sono anche richieste come diciamo spazi, grazie appunto a un sistema del leasing, perché appunto abbiamo cercato di rinnovare per intero le aule con un poi contratto di locazione, diciamo così, trimestrale, per poter dare subito, no, delle nuove macchine, ma nello stesso tempo ecco pagarle poi in maniera dilazionata per consentire, no, di avere delle aule certo, prestanti, delle attrezzature, attrezzature adeguate. Insomma, queste attrezzature acquisite attraverso il leasing la mattina vengono usate dai ragazzi della scuola, nel pomeriggio vengono affittate, vengono utilizzate invece da altre persone, e da lì entra qualche soldino. Però lei non si è fermata lì, perché ha avuto un'altra idea. Oltre al noleggio di queste aule abbiamo bene anche una palestra, abbiamo la fortuna di avere anche una palestra, quindi noleggiamo anche la palestra, ok. Però ecco, abbiamo anche i rivenditori, no, delle merende, i distributori diciamo delle bevande, che in cambio naturalmente della possibilità così di venire a vendere, no, i loro prodotti, oppure della luce che comunque loro, no, consumano per poter attaccare, diciamo, distributore di bevande eccetera, ecco, ci lasciano anche loro un contributo. Quindi lei non ha avuto la necessità di mettere le mani in tasca alle famiglie, insomma? Ma guardi, il contributo, diciamo così, che chiediamo alle famiglie è un contributo piuttosto modesto rispetto anche a tanti altri istituti, perché già la nostra utenza è un'utenza che non, insomma, diciamo abbastanza particolare. La nostra scuola, la mia scuola comprende due istituti professionali, un istituto tecnico e un istituto d'arte, no, futuro liceo artistico. Però quindi ecco, insomma non vuole mettere in difficoltà le famiglie. No, in particolare noi abbiamo anche tante richieste addirittura proprio di esonero pagamento, certo, del contributo. Perché questa cosa non è piaciuta alla Gelmini, dice voi presidi insomma fate presto a chiedere soldi alle famiglie, invece dovete arrangiarvi. Lei insomma troppo si è arrangiata. Sì, ecco, il discorso di arrangiarci va bene, però ecco io ritengo che appunto comunque intanto lo Stato ci dovrebbe dare quello che ci deve dare, ecco, perché noi a lei quanto deve dare? Io complessivamente supero i 400.000 euro. Giovanna Mezzatesta non è da meno, dirige la primaria rinnovata Pizzigoni di Milano e la scuola viene utilizzata come location di pubblicità. La sede, diciamo, si presta da questo punto di vista, perché è una sede di primo Novecento. E quindi l'avete data in prestito per come location per alcuni spot pubblicitari? No, quali? Anche in passato anche per alcuni veri e propri film, l'una e l'altra di Nichetti, negli interni scolastici l'hanno girata qua. E invece le pubblicità, che pubblicità avete girato? Le pubblicità, che ne so, quando c'è stata la moda college, allora c'erano ste ragazzine con i vestitini stile college appunto dentro la scuola. Poi c'è stato uno spot pubblicitario chiesto da un'agenzia che poi aveva già l'appalto per la Carrefour, che faceva i suoi cataloghi per roba scolastica, diciamo. E le entrate poi le utilizzate per le spese correnti, insomma, quelle che non riuscite a fronteggiare. Le spese di funzionamento, su cui è quello che proprio su cui manca. Ma anche il finanziamento. Anche lei vanta dei crediti nei confronti dello Stato, come la maggior parte dei suoi colleghi presidi. Quanto? 137.000 euro. Altra idea, quella di chiedere di poter beneficiare del 5 per 1000. C'è anche riuscita? Sì, è stata un'idea dell'anno scorso. Diciamo che è un modo anche per chiedere ai genitori, senza chiedere, perché in questo caso è chiaro che per la maggior parte sono i genitori piuttosto che gli amici dei genitori, perché è una cosa che rimane abbastanza interna. Però senza dare in mano al genitore il bollettino che rimane un po' antipatico, sì, no? Sì. Da distribuire, e che forse è proprio quel bollettino che non piace alla Gelmini, che dice non mettete le mani in tasca alle famiglie. Sì, noi diciamo che come scuole primarie bollettini di contributi credo che nessuna scuola primaria ne chieda, se non come arrotondamento di un contributo che va all'assicurazione. Devo smentirla, perché alcune scuole in realtà i bollettini li mettono in mano ai genitori chiedendo un contributo volontario e non obbligatorio, peraltro, insomma. Sì. Sì. Senta, avete in mente qualcos'altro, visto che mi sembra molto fantasiosa la sua scuola, anche lei, insomma? Qualcos'altro che bolle in pentola, qualche altra bella idea? A me ogni tanto mi è in voglia di chiedere proprio i veri e propri sponsor, siccome questa scuola quando è stata fatta, visto che ha un giardino molto ampio, per esempio, è stato fatto con un contributo dei vivai ingegnoli. Però si vede che era molto più disponibile l'allora proprietario dei vivai ingegnoli, perché io ho provato anche, lo confesso, a batter cassa dicendo: ma non è che magari se noi vi mettiamo fuori dove ci sono gli alberi scritto offerto dai vivai ingegnoli, voi sareste disposti a? Non mi hanno dato risposta, che era forse per non mandarmi a quel paese. Per ascoltare questa puntata come tutte le altre, radio24.it, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.